Ad alta voce. Moni Ovadia legge Il nome della rosa di Umberto Eco. Primo giorno, prima, dove si arriva ai piedi dell'abbazia e Guglielmo dà prova di grande acume. Era una bella mattina di fine novembre. Nella notte aveva nevicato un poco, ma il terreno era coperto di un velo fresco non più alto di 3 dita. Al buio, subito dopo l'audi, avevamo ascoltato la messa in un villaggio a valle. Poi, allo spuntar del sole, ci eravamo messi in viaggio verso le montagne. Come ci inerpicavamo per il sentiero scosceso che si snodava intorno al monte, vidi l'abbazia. Non mi stupirono di essa le mura che la cingevano da ogni lato, simili ad altre che vidi in tutto il mondo cristiano, ma la mole di quello che poi appresi essere l'edificio. Era questa una costruzione ottagonale che a distanza appariva come un tetragono, figura perfettissima che esprime la saldezza e l'imprendibilità della città di Dio, i cui lati meridionali si ergevano sul pianoro dell'abbazia, mentre quelli settentrionali sembravano crescere dalle falde stesse del monte su cui si innervavano a strapiombo. Dico che in certi punti, dal basso, sembrava che la roccia si prolungasse verso il cielo, senza soluzione di tinte e di materia, e diventasse a un certo punto mastio e torrione, opera di giganti che avessero gran familiarità e con la terra e col cielo. Non dirò comunque che essa suggerisse sentimenti di giocondità. Io ne trassi spavento e una inquietudine sottile. Dio sa che non erano fantasmi dell'animo mio immaturo e che rettamente interpretavo indubitabili presagi iscritti nella pietra, sin dal giorno che i giganti vi posero mano e prima che la illusa volontà dei monaci ardisse consacrarla alla custodia della parola divina. Mentre i nostri muletti arrancavano per l'ultimo tornante della montagna, là dove il cammino principale si diramava a trivio, generando 2 sentieri laterali, il mio maestro si arrestò per qualche tempo, guardandosi intorno ai lati della strada, e sulla strada e sopra la strada, dove una serie di pini sempre verdi formava per un breve tratto un tetto naturale, canuto di neve. «Abbazia ricca!» disse. All'abate piace apparire bene nelle pubbliche occasioni. Abituato com'ero a sentirlo fare le più singolari affermazioni, non lo interrogai, anche perché, dopo un altro tratto di strada, udimmo dei rumori e, a una svolta, apparve un agitato manipolo di monaci e di famiglie. Uno di essi, come ci vide, ci venne incontro con molta urbanità. «Benvenuto, signore», disse, «e non vi stupite se immagino chi siete, perché siamo stati avvertiti della vostra visita. Io sono Remigio da Varagine, il cellario del monastero, e se voi siete, come credo, frate Guglielmo da Bascavilla, l'abate dovrà esserne avvisato. Tu, ordinò rivolto a uno del seguito, risali ad avvertire che il nostro visitatore sta per entrare nella cinta. Vi ringrazio, signor cellario, rispose cordialmente il mio maestro. E tanto più apprezzo la vostra cortesia in quanto, per salutarmi, avete interrotto l'inseguimento. Ma non temete, il cavallo è passato di qua e si è diretto per il sentiero di destra. Non potrà andare molto lontano perché, arrivato al deposito dello strame, dovrà fermarsi. È troppo intelligente per buttarsi lungo il terreno scosceso. Quando lo avete visto? Domandò il cellario. Non l'abbiamo visto affatto, non è vero, Azzo? Disse Guglielmo volgendosi verso di me con aria divertita. Ma se cercate Brunello, l'animale non può che essere là dove io ho detto. Il cellario esitò, guardò Guglielmo, poi il sentiero, e infine domandò: Brunello, come sapete? Su via, disse Guglielmo. È evidente che state cercando Brunello, il cavallo preferito dall'abate, il miglior galoppatore della vostra scuderia, nero di pelo, alto 5 piedi, dalla coda sontuosa, dallo zoccolo piccolo e rotondo, ma dal galoppo assai regolare. Capo minuto, orecchie sottili, ma occhi grandi. È andato a destra, vi dico, e affrettatevi in ogni caso. Il cellario ebbe un momento di esitazione, poi fece un segno ai suoi e si gettò giù per il sentiero di destra, mentre i nostri muli riprendevano a salire. Mentre stavo per interrogare Guglielmo, perché ero morso dalla curiosità, egli mi fece cenno di attendere, e infatti, pochi minuti dopo, udimmo grida di giubilo e alla svolta del sentiero riapparvero monaci e famigli riportando il cavallo per il morso. Ci passarono di fianco, continuando a guardarci alquanto sbalorditi, e ci precedettero verso l'abbazia. Credo anche che Guglielmo rallentasse il passo alla sua cavalcatura per permettere loro di raccontare quanto era accaduto. Infatti avevo avuto modo di accorgermi che il mio maestro, in tutto e per tutto uomo di altissima virtù, indulgeva al vizio della vanità quando si trattava di dar prova del suo acume e, avendone già apprezzato le doti di sottile diplomatico, capii che voleva arrivare alla meta preceduto da una solida fama di uomo sapiente. E ora ditemi, alla fine non seppi trattenermi, come avete fatto a sapere? «Mio buon Azzo», disse il maestro, «è tutto il viaggio che ti insegno a riconoscere le tracce con cui il mondo ci parla come un grande libro. Alano delle Isole pensava alla inesausta riserva di simboli con cui Dio, attraverso le sue creature, ci parla della vita eterna. Ma l'universo è ancor più loquace di come pensava Alano. E non solo parla delle cose ultime, nel qual caso lo fa sempre in modo oscuro, ma anche di quelle prossime. E in questo è chiarissimo. Quasi mi vergogno a ripeterti quel che dovresti sapere. Al Trivio, sulla neve ancora fresca, si disegnavano con molta chiarezza le impronte degli zoccoli di un cavallo che puntavano verso il sentiero alla nostra sinistra. A bella eguale distanza l'uno dall'altro, quei segni dicevano che lo zoccolo era piccolo e rotondo e il galoppo di grande regolarità, così che ne dedussi la natura del cavallo e il fatto che esso non correva disordinatamente come fa un animale imbizzarrito. Là, dove i pini formavano come una tettoia naturale, alcuni rami erano stati spezzati di fresco, giusto all'altezza di 5 piedi. Uno dei cespugli di more, là dove l'animale deve aver girato per infilare il sentiero alla sua destra, mentre fieramente scuoteva la sua bella coda, tratteneva ancora tra gli spini dei lunghi crini nerissimi. Sì, dissi, ma il capo piccolo, le orecchie aguzze, gli occhi grandi, non so se li abbia, ma certo i monaci lo credono fermamente. Diceva Isidoro di Siviglia che la bellezza di un cavallo esige zoccolo piccolo e rotondo, capo minuto, orecchie sottili, ma occhi grandi. Se il cavallo di cui ho inferito il passaggio non fosse stato davvero il migliore della scuderia, non spiegheresti perché a inseguirlo non sono stati solo gli stallieri, ma si è incomodato addirittura il cellario. E un monaco che considera un cavallo eccellente al di là delle forme naturali non può non vederlo così come le auctoritates glielo hanno descritto, specie se, e qui sorrise con malizia al mio indirizzo, è un dotto benedettino. «Va bene», dissi, «ma perché Brunello?» «Ah, che lo Spirito Santo ti dia più sale in zucca di quel che hai, figlio mio!» esclamò il maestro. «Quale altro nome gli avresti dato se persino il grande Buridano, che sta per diventare rettore a Parigi, dovendo parlare di un bel cavallo, non trovò nome più naturale?» Così era il mio maestro. Non soltanto sapeva leggere nel gran libro della natura, ma anche nel modo in cui i monaci leggevano i libri della scrittura e pensavano attraverso di quelli, dote che, come vedremo, gli doveva tornare assai utile nei giorni a venire. Ma riprendi le fila, o mio racconto, che questo monaco senescente si attarda troppo nei marginalia. Di piuttosto che arrivamo al grande portale dell'abbazia e sulla soglia stava l'abate a cui 2 novizi sorreggevano una bacinella d'oro colma d'acqua, come fummo discesi dai nostri animali, egli lavò le mani a Guglielmo, poi lo abbracciò, baciandolo sulla bocca e dandogli il suo santo benvenuto, mentre il cellario si occupava di me. «Grazie, abbone», disse Guglielmo. «È per me una gioia grande metter piede nel monastero della magnificenza vostra, la cui fama ha valicato queste montagne. Io vengo come pellegrino nel nome di nostro Signore e come tale voi mi avete reso onore. Ma vengo anche a nome del nostro Signore su questa terra, come vi dirà la lettera che vi consegno. E anche a suo nome vi ringrazio per la vostra accoglienza». L'abate prese la lettera coi sigilli imperiali e disse che in ogni caso la venuta di Guglielmo era stata preceduta da altre missive di suoi confratelli. Dapoiché mi dissi con un certo orgoglio, è difficile cogliere un abate benedettino di sorpresa. Poi pregò il cellario di condurci ai nostri alloggiamenti, mentre gli stallieri ci prendevano le cavalcature. L'abate si ripromise di visitarci più tardi quando ci fossimo rifocillati ed entrammo nella grande corte dove gli edifici dell'abbazia si estendevano lungo tutto il dolce pianoro che smussava in morbida conca o alpe la sommità del monte. Primo giorno, terza, dove Guglielmo ha una istruttiva conversazione con l'abate. Il cellario era uomo pingue e di aspetto volgare ma gioviale, canuto ma ancor robusto, piccolo ma veloce. Ci condusse alle nostre celle nella casa dei pellegrini, o meglio, ci condusse alla cella assegnata al mio maestro, promettendomi che per il giorno seguente ne avrebbe liberata una anche per me, in quanto, sebbene novizio, ero ospite loro e dunque dovevo essere trattato con ogni onore. Per quella notte avrei potuto dormire in una vasta e lunga nicchia che si apriva nella parete della cella, su cui aveva fatto disporre della buona paglia fresca. Poi i monaci ci portarono vino, cacio, olive, pane e della buona uva passa e ci lasciarono a rifocillarci. Mangiammo e bevemmo con molto gusto. Il mio maestro non aveva le abitudini austere dei benedettini e non amava mangiare in silenzio. Peraltro parlava sempre di cose così buone e sagge che era come se un monaco ci leggesse le vite dei santi. Quel giorno non mi trattenni dall'interrogarlo ancora sul fatto del cavallo. Però, dissi, quando voi avete letto le tracce sulla neve e sui rami non conoscevate ancora Brunello. In un certo modo quelle tracce ci parlavano di tutti i cavalli o almeno di tutti i cavalli di quella specie. Non dobbiamo dunque dire che il libro della natura ci parla solo per essenze, come insegnano molti insigni teologi? «Del tutto, caro Azzo», mi rispose il maestro. «Certo, quel tipo di impronte mi esprimeva, se vuoi, il cavallo come verbum mentis e me l'avrebbe espresso ovunque l'avessi trovato. Ma l'impronta in quel luogo, in quell'ora del giorno, mi diceva che almeno uno tra tutti i cavalli possibili era passato di lì, così che io mi trovavo a mezza strada tra l'apprendimento del concetto di cavallo e la conoscenza di un cavallo individuale. E in ogni caso, quel che io conoscevo del cavallo universale mi era dato dalla traccia che era singolare. Potrei dire che in quel momento io ero prigioniero tra la singolarità della traccia e la mia ignoranza che assumeva la forma assai diafana di un'idea universale. Se tu vedi qualcosa da lontano e non capisci cosa sia, ti accontenterai di definirlo come un corpo esteso. Quando ti si sarà avvicinato, lo definirai allora come un animale, anche se non saprai ancora se sia un cavallo o un asino. E infine, quando esso sarà più vicino, potrai dire che è un cavallo, anche se non saprai ancora se Brunello o Favello. E solo quando sarai alla giusta distanza tu vedrai che è Brunello, ovvero quel cavallo e non un altro, comunque tu decida di chiamarlo. E quella sarà la conoscenza piena, l'intuizione del singolare. Così io un'ora fa ero pronto ad attendermi tutti i cavalli, ma non per la vastità del mio intelletto, bensì per la pochezza della mia intuizione. E la fame del mio intelletto è stata saziata solo quando ho visto il cavallo singolo che i monaci portavano per il morso. Solo allora ho veramente saputo che il mio ragionare di prima mi aveva condotto vicino alla verità. Così le idee che in precedenza io usavo per figurarmi un cavallo che non avevo ancora visto erano puri segni, come erano segni dell'idea di cavallo le impronte sulla neve. E si usano segni e segni di segni solo quando ci fanno difetto le cose. Non avevo forze sufficienti per affrontare dispute teologiche, sì che mi rannicchiai nello spazio che mi era stato concesso e mi avvolsi in una coperta e caddi in un sonno profondo. Chi fosse entrato avrebbe potuto scambiarmi per un fagotto, e così fece certamente l'abate quando venne a visitare Guglielmo verso l'ora terza. Fu così che io potei ascoltare inosservato il loro primo colloquio, e senza malizia, perché il manifestarmi di colpo al visitatore sarebbe stato più scortese che il celarmi, come feci con umiltà. Giunse pertanto a Bone. Si scusò per l'intrusione, rinnovò il suo benvenuto e disse che doveva parlare a Guglielmo di cosa assai grave. Cominciò a congratularsi con lui per l'abilità con cui si era condotto nella storia del cavallo e chiese come mai egli aveva saputo dar notizie tanto sicure di una bestia che non aveva mai vista. Guglielmo gli spiegò succintamente la via che aveva seguito e l'abate molto si rallegrò per il suo acume. Disse che non si sarebbe atteso di meno da un uomo che era stato preceduto da una fama di grande sagacia. Gli disse che aveva ricevuto una lettera dall'abate di Farfa che non solo gli parlava della missione affidata a Guglielmo dall'imperatore, della quale avrebbero poi discusso nei giorni seguenti, ma anche gli diceva che in Inghilterra e in Italia il mio maestro era stato inquisitore in alcuni processi, dove si era distinto per la sua perspicacia, non disgiunta da grande umanità. «Mi è molto piaciuto sapere», aggiunse l'abate, «che in numerosi casi voi avete deciso per l'innocenza dell'accusato. Credo, e mai come in questi giorni tristissimi, alla presenza costante del maligno nelle cose umane». E si guardò intorno impercettibilmente, come se il nemico si aggirasse tra quelle mura. «È accaduto in questa abbazia qualcosa che richiede l'attenzione e il consiglio di un uomo acuto e prudente». Acuto per scoprire e prudente, se il caso, per coprire. Spesso, infatti, è indispensabile provare la colpa di uomini che dovrebbero eccellere per la loro santità, ma in modo da poter eliminare la causa del male senza che il colpevole venga additato al pubblico disprezzo. Se un pastore falla, deve essere isolato dagli altri pastori, ma guai se le pecore cominciassero a diffidare dei pastori. «Capisco», disse Guglielmo. Avevo già avuto modo di notare che quando si esprimeva in quel modo così sollecito ed educato, di solito celava, in modo onesto, il suo dissenso o la sua perplessità. «Per questo», continuò l'abate, «ritengo che ogni caso che riguardi il fallo di un pastore non possa essere affidato che a uomini come voi che non solo sanno distinguere il bene dal male, ma anche ciò che è opportuno da ciò che non lo è. Mi piace pensare che voi abbiate condannato solo quando...» «Quando gli accusati erano colpevoli di atti delittuosi, di benefici, di corruzione di fanciulli innocenti e di altre nefandezze che la mia bocca non osa pronunziare». che abbiate condannato solo quando, continuò l'abate senza tener conto dell'interruzione, la presenza del demonio fosse così evidente agli occhi di tutti da non potersi procedere diversamente senza che l'indulgenza fosse più scandalosa dello stesso delitto. Quando ho riconosciuto qualcuno colpevole, precisò Guglielmo, costui aveva realmente commesso crimini di tal fatta che potevo consegnarlo con buona coscienza al braccio secolare. L'abate ebbe un attimo di incertezza. Perché, chiese, insistete nel parlare di azioni delittuose senza pronunciarvi sulla loro causa diabolica? Perché ragionare sulle cause e sugli effetti è cosa assai difficile, di cui credo che l'unico giudice possa essere Dio. Noi già fatichiamo molto a porre un rapporto tra un effetto così evidente come un albero bruciato e la folgore che lo ha incendiato, che risalire catene talora lunghissime di cause ed effetti mi pare altrettanto folle che cercare di costruire una torre che arrivi sino al cielo. Torniamo ai processi. Vedete, un uomo, poniamo, è stato ucciso per beneficio. Questo è un dato di esperienza. È possibile che io immagini, di fronte a certi segni inconfutabili, che l'autore del beneficio sia un altro uomo. Su catene di cause così semplici, la mia mente può intervenire con una certa fiducia nel suo potere. Ma come posso complicare la catena immaginando che, a causare l'azione malvagia, ci sia un altro intervento, questa volta non umano ma diabolico? Non dico che non sia possibile. Anche il diavolo denuncia il suo passaggio per chiari segni, come il vostro cavallo Brunello. Ma perché devo cercare queste prove? Non è già sufficiente che io sappia che il colpevole è quell'uomo e lo consegni al braccio secolare? In ogni caso, la sua pena sarà la morte, che Dio lo perdoni. Moni Ovadia ha letto Il nome della rosa di Umberto Eco. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio. Regia di Chiara D'Ambros. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.